Smart City, la città intelligente. Buonasera da Chiara Albicocco. Questa sera parliamo di housing sociale, che potremmo tradurre in italiano come alloggio sociale, perché il termine deriva dalla parola inglese house, che appunto significa casa, e rappresenta quella serie di iniziative volte a fornire delle abitazioni in affitto o in vendita a canoni agevolati per quelle famiglie che non possono permettersi gli alloggi di libero mercato. Più o meno questo, ma stasera approfondiamo l'argomento con chi coordina l'area progettazione e sviluppo della Fondazione Housing Sociale. Diamo il benvenuto a Giordana Ferri. Buonasera. Buonasera. La fondazione per cui lavora coordina alcuni progetti in Italia che gestiscono appunto l'housing sociale, corretto? È corretto. La mia fondazione, che è nata nel 2004, è nata proprio con l'obiettivo di promuovere l'housing sociale su tutto il territorio nazionale. Grazie all'attività fatta dalla fondazione e da altri soggetti molto importanti istituzionali è stato possibile poi creare un fondo nazionale che è da circa 2 anni che opera e che finanzia l'housing sociale su tutto il territorio italiano e che ha a disposizione 2 miliardi di euro per lo sviluppo in tutte le regioni di interventi di housing sociale, che non è un fondo statale, nel senso che è un fondo che è gestito da Cassa Depositi e Prestiti e Investimenti ed è finanziato da dei soggetti privati e in parte anche dal pubblico. Okay. Sono stati attirati degli investitori che noi chiamiamo pazienti perché si accontentano di un rendimento basso e soprattutto a lungo termine per con in cambio una piccola cifra, ecco. Esatto. Okay. E quindi lei diceva 2 miliardi di euro spesi come? Allora direi di cominciare a raccontare che cos'è l'housing sociale, perché non se ne sente parlare molto spesso. Infatti, allora, in tutta Europa esiste l'housing sociale, che è una formula di offerta abitativa che è rivolta a persone che non entrano per requisiti nelle liste delle case delle cosiddette case popolari, ma che non sono nemmeno sufficientemente ricchi per accedere al mercato. Questa fascia di popolazione, quando abbiamo iniziato, era ampia, però comunque ben identificata. In questo momento di crisi, ovviamente, è una fascia enorme che comprende anche persone molto diverse tra loro, per cui dal laureato all'immigrato, è una fascia di popolazione molto ampia. Ecco, e come funziona? Intanto chi può accedere? Cioè, quali sono i requisiti e i criteri che vengono utilizzati per l'assegnazione? In ogni regione circa c'è un fondo in questo momento. Per esempio nel fondo immobiliare di Lombardia, noi abbiamo anche la regione Lombardia tra gli investitori di questo fondo, si fanno delle convenzioni con l'ente pubblico per cui ci si rifà dei criteri anche reddituali stabiliti per legge, mm-hmm. per il canone, quello che viene chiamato canone moderato. Mm-hmm. Quindi noi abbiamo dei criteri oggettivi e fin qui è un modus operandi abbastanza diffuso. In realtà poi noi introduciamo quasi sempre nei nostri progetti dei criteri anche qualitativi. Questo significa che studiamo il progetto in modo tale che ci sia una certa percentuale di giovani, di anziani, creiamo un mix sociale, mm-hmm. e attraverso queste categorie preferenziali andiamo a selezionare le persone. Inoltre il criterio più importante che a noi serve per selezionare persone è che noi coinvolgiamo le persone in un percorso attraverso il quale gli inquilini diventano gestori degli spazi comuni, ed è per questo che lo chiamiamo housing sociale collaborativo, nel senso che il nostro obiettivo è fare in modo che si generi una comunità coesa che utilizza gli spazi comuni e che mantiene il bene in una condizione sociale positiva per l'intervento e per il quartiere. Questo è l'obiettivo più importante in un certo senso. Oltre al mix sociale generato in questo modo, noi facciamo in modo che l'offerta sia varia. Cosa significa? Noi di solito, le faccio un esempio, su un intervento che stiamo facendo a Milano dove il comune ha dato l'area, noi abbiamo una percentuale di canone sociale, che quindi diciamo che viene attribuito attraverso le liste del comune. Quindi rientra nella definizione case popolari, se vogliamo. Esatto, però ecco. un 15%. Le altre possibilità sono un canone moderato, che significa un canone calmierato, le faccio un esempio, 400-500 euro al mese per un alloggio di 70-80 metri quadrati, quindi sì, è un canone che per Milano è basso, relativamente, diciamo, basso, sì. È un 30% in meno rispetto a quello di mercato. Poi abbiamo delle formule di affitto con patto di futuro acquisto, quindi dove la persona paga una percentuale d'affitto e una percentuale di conto, diciamo, in conto acquisto, in conto deposito, che accumula, sì, esatto, per 8 anni, un risparmio che gli servirà poi per acquistare la casa. E poi vendita convenzionata, per esempio su Milano noi vendiamo a un prezzo che oscilla dai 2.000 ai 2.100 al metro quadrato. Parliamo, ecco, di edifici qui, certo, in classe energetica A, con tecnologie molto avanzate, quindi sono edifici di altissima qualità. Ecco, questo è un po' il punto a cui volevo arrivare, nel senso che dobbiamo dimenticare un po' l'idea che abbiamo dei vecchi palazzoni popolari, perché quelli che voi create sono progetti invece ad altissima tecnologia e ad architettura di categoria A, insomma, energetica molto efficiente. Esatto, allora nella nostra missione e in generale anche nella missione del sistema integrato dei fondi, che è questo programma nazionale, c'è, diciamo, l'obiettivo di creare anche dei modelli che poi possano generare delle politiche abitative. C'è la sperimentazione di tipologie architettoniche innovative, quindi quasi tutti gli immobili sono in classe B o classe A, quindi significa la classe energetica più alta, quindi il minor consumo possibile, questo corrisponde anche a meno spese per le utenze. Ecco, abbiamo pochissimi secondi per concludere, sicuramente torneremo su questo argomento perché è molto interessante. Voi avete realizzato diversi progetti che utilizzate anche come modello in Europa. La cosa che volevo chiederle è, lei ci ha parlato della regione Lombardia, ma in Italia state lavorando anche sulle altre regioni? Sì, sì, Toscana, in Piemonte, in Emilia Romagna, in quasi tutte le regioni. Allora, torneremo a parlare di questo, però altre informazioni si possono reperire sul vostro sito. Sì, il nostro sito è www.shs, come fondazione, housing con la H, sociale.it. E per stasera è tutto, noi torniamo domani con Smart City per raccontarvi dei rifiuti abusivi. Buona serata a tutti.